Abbiamo saltato un capitoletto, mi sono reso conto, quindi bisogna tornare un pochino indietro e l'ultimo utile, diciamo così, è quello 36, o perlomeno partiamo di lì, quello 36 che si intitola il segno macro, che abbiamo fatto su un bagno ieri, no? Ieri. Allora, il capitoletto poi successivo si trova alla pagina dopo, nel 37 evidentemente, e lo intitoliamo libera, virgola, perché il marito è morto. Il capoverso inizia, il primo capoverso utile è Madame d'Ambrose s'approcha e sans effort avec la simplicité du devoir. Quant'è? 406. Torno sul punto che ho accennato una volta, su cui vorrei tornare. Per favore, silenzio. Sono lieto brusio di alveare, insomma, di uccelliera, che mi fa pensare a qualcosa di positivo, cioè abbiamo stabilito una sorta di, tra di voi, di spirito di gruppo, come capita alla fine di un corso. Dunque, la parabola sostanzialmente è quella dall'amore ai soldi. Ecco, a un certo momento ci sono queste tempeste, come dicevo da ieri, queste tempeste di danari, danari prestati, danari non restituiti, e quindi la tragedia che viene fuori sostanzialmente, viene fuori proprio dove i soldi hanno un po' sostituito e ammazzato tutto. Ecco. Madame d'Ambrose, di questo stiamo parlando. Madame d'Ambrose, il volto l'ho detto, una borghese ex aristocratica, una di quelle che al seguito del marito aveva fatto i soldi, ma il marito soprattutto un personaggio di grande interesse, era uno che aveva servito il potere con la P maiuscola, tutto il potere, ma anche lui, come tutti noi, non lo so se anche voi siete compresi, un giorno muore, anche lui. Guardate la meraviglia di questa scena in cui tutta l'ipocrisia degli affetti coniugali che in realtà nascondono l'avidità viene messa, insomma, e il sarcasmo, l'umorismo da una parte, dall'altra parte il disprezzo della cortesia, sarcasmo, umorismo, disprezzo della cortesia, della sua stupidità, fenomenologia del lavoro, sono questi i tre grandi temi flaubertiani. Madame d'Ambrose si avvicinò al defunto, e senza sforzo, con la semplicità del dovere, gli chiuse le palpebre, poi allargò le braccia, e torceva la vita come nello spasmo di una disperazione contenuta. E uscì dall'appartamento appoggiata al medico e alla suora, e quarto d'ora dopo Frederick salì nella casa. Vi si sentiva un odore indefinibile, emanazione delle cose delicate che la riempivano. In mezzo al letto, un vestito nero si stendeva, risaltando sul copripiedi rosa. Quando appeso era nell'angolo al caminetto, in piedi, senza supporre i violenti rimpianti, lui però la credeva un po' triste, e con voce dolente soffrì io e l'ha fatto. E quando si voltò, vide il vestito, dopo che voltandosi vide il vestito, e vide il vestito da del defunto, naturalmente, di defunto, e lo esaminò. poi gli disse di non imbarazzarsi. Fuma, se vuoi, sei casa mia. E con un grande sospiro, non senta vergine. Che liberazione! Federica fu stupito dell'esclamazione e riprese prendendo la mano, però eravamo liberi. Con illusione, all'agio dei loro amori, parve ferire Madame d'Albreuse. Tu non sai i servizi che gli rendevo e non sai quale angosce ho vissuto. Come? Sì. Era per caso una sicurezza aver sempre vicino a sé una bastarda, una ragazzina introdotta in casa dopo 5 anni di matrimonio e chi senza di me? Certo, chissà che l'avrebbe fatto. Allora, lei spiegò la situazione. Si erano sposati in regime di separazione di beni. Il suo patrimonio era di 300.000 franchi. D'Ambrosio, con il contratto, le aveva assicurato in caso di sopravvivenza 15.000 franchi di rendita con la proprietà della casa. Ma poco tempo dopo aveva fatto un testamento in cui le dava invece tutta la sua fortuna, che rimontava, per quanto adesso era possibile sapere, più di 3 milioni di franchi. Frederic spalancò gli occhi. Ne valeva la pena, non è vero? E ho contribuito del resto. Era il mio bene che difendevo. Cecilia me l'avrebbe portato via, ingiustamente. Chi è Cecilia? Passa per nipotina, adesso è una ragazza naturalmente, e sapremo che sarà sposata a uno degli amici di Frederica, Martinot, il quale Martinot naturalmente pensa bene con Cecilia, è uno degli amici di cui naturalmente non abbiamo potuto parlare, di cui voi dovete sapere assolutamente tutto. Una delle domande di Carola Esame sarà per esempio questa: chi era il cugino in secondo grado di Martinot, non di questo genere? Come si vestiva la nonna di Martinot? Queste sono le domande. Martinot voleva, per motivi di sordo, voleva sposare Cecilia. Cecilia in realtà era la figlia naturale di lui, di D'Ambrosio. Quindi non era una nipotina. Quindi c'è questa bienseance, questa ipocrisia, no? E insomma, per una donna doversi sorbire la figlia naturale del marito è sempre un problema. Ma in altri tempi gli uomini avevano spesso dei figli naturali fuori dal matrimonio, quindi non è una cosa poi così stravagante. E imponevano il figlio naturale alla moglie con cui stava. Naturalmente il vero problema non era quello degli affetti o non affetti, non esistevano considerazioni del genere, però era un altro, era poi la successione, perché tutta quest'ultima parte, lo ripeto per la quarta volta, come lo ripeterò fino a quello 40, tutta la quarta parte è come scomporta non solo dal denaro, ma dal problema della sussistenza, dei beni. È come se, in altri termini, tutto questo tema iniziale dell'educazione sentimentale, dell'educazione, come diceva Augusto, non solo dei sentimenti, ma fatta in modo sentimentale, andasse a finire tra i notai, i commercialisti, in questo bailamme incredibile di testamenti, di soldi, di gente che viene rovinata, no? A dimostrare quanto poco Flaubert crede poi all'amore. Come dice, le cose della vita che contano poi purtroppo sono queste, sono i problemi di soldi. Quindi, evidentemente, D'Ambrosio, Madame D'Ambrosio, detesta la nipotina cosiddetta, perché teme che le soffi il testamento. Abbiamo visto che inizialmente lui ha fatto, D'Ambrosio, un testamento, era un regime di separazione di beni, come adesso si usa naturalmente. E allora ha fatto un testamento in cui aveva 15.000 franchi. ma poi successivamente voleva lasciare tutto, cioè 3 milioni di franchi. Ora tra 15.000 e 3 milioni, però c'è la differenza. C'è la differenza. Oddio, io se vedessero 15.000 franchi di allora sarei molto contento, ma domani non c'è più l'università e fuggo da un giusto paio, come ho detto più volte in passato, di simpi rossi. Con una ventenne alla Hawaii, con il caso di questo qua, ma insomma, vabbè. Ma troppo caro, non c'è un terreno nuovo di queste cose qui. Cioè. E poi bisogna andare, appunto, è soffri, chiede Frederick a. Guardate quella cosa che lei fa, la mossa, storcendosi della disperazione contenuta, nel senso che vuol far vedere che piange, vuol far vedere che soffre. Vuol far vedere che soffre. Ma quando è che uno comincia a diventare a un certo momento, questa è la riflessione che si fa leggendo Flaubert, uno scemo burattino a 5 anni, questo è quello che uno si chiede. Quanto è che uno, forse a scuola lo si diventa, poi a un certo momento nella vita è la finzione assoluta, no? Ambienti, detto per inciso, come quello dell'università, che sono abbastanza infrequentabili, sono adesso, insomma, con le condizioni attuali in Italia, tutti stanno come pezzo al culo sostanzialmente. Ma c'è una storchia, una falsità, un'ipocrisia, insomma, tra i colleghi giovani che cercano naturalmente di farsi le scarpe l'un l'altro, no? E quindi se io riuscissi sempre a vedere il segno, una cosa. Quindi va nella camera tra lì e sente un odore, dice qua, sentite come è interessante questo, un odore indefinibile, emanazione delle cose delicate. Già, perché ci sono, avrebbe detto Baudelaire, ci sono le camere dei poveri, e ci sono le camere dei ricchi. E se tu vai dentro le camere dei ricchi, hanno un odore diverso, nel senso che a parità di malattia, il malato ricco e il malato povero, l'odore dell'urina, per esempio, che è uno degli odori più stagnanti e più, no? E io ti colpisce sempre. Cioè, no, la pipì non conosce le classi sociali, sostanzialmente. Però, la differenza è che nelle camere dei ricchi ci sono fiori, per esempio. Ci sono preziose essenze. L'odore della camera del povero abbandonata per continuare a se stessa. L'intruglio è naturalmente non più gradevole, ma più misterioso nella camera del ricco, rispetto a del povero. Stiamo parlando di morti ricchi, ho dimenticato di fare questa organizzazione, i morti poveri. Nella camera del povero morto, del morto povero se preferite, c'è l'odore delle medicine, c'è l'odore appunto dell'urina, eccetera, eccetera. Ma nella camera del corpo ricco ci sono anche queste essenze, quindi lui entrando sente proprio i legni pregiati, no? Queste cose le sente. E non posso spostarlo se toccavo un corpo il prossimo anno. Vedremo di cambiare vita. Tu soffri, dice, no, non soffro affatto. E allora sentite quello che la vedova, la mia vedova proprio, fuma se vuoi. Quindi fuma, lì fra l'altro, nella camera del morto, è assai poco conveniente, insomma, no? È una forma di oltraggio e di ribellione al morto. Non solo, ma il fumare, io non fumo, molti di voi fumano, oltre che naturalmente gli Spinelli. Molti di voi fumano, naturalmente, il fumare è una forma di liberazione, no? Un fumare a tavola. Perché io ho un'amica in una lotta e fuma, io detesto il fumo, ma è come una liotina, letto. Quindi fumare, dice, prendi, adesso abbiamo finito la fatica. Fuma di una sigaretta, fuma. E dice questa meraviglia, apprezzato la sottigliezza, dice, sei in casa mia. Mia, prima era casa loro, c'era il marito di mezzo. Adesso il fumare è un segno della libertà che ha acquisito. Ma vedete come queste bellezze ragazzi come si nascondono, no? Cioè perché comuni, diciamo così, leggere una carta del genere non ne vive la risonanza profonda. Una, fai quello che vuoi, sei a casa mia. E dopodiché, guardate com'è, com'è meraviglioso, io mi commuovo di fronte a queste cose belle, la Santa Vergine, cioè sono quelle esclamazioni vecchio di notte che si usano in case come quelle, la Santa Vergine, e poi aggiunge che liberazione. Nessun dolore. E notate come tutto questo viene detto da Flaubert con grande durezza, cioè non c'è nemmeno un briciolo di mistificazione ipocrita in questo senso in Madame d'Ambrosio, adesso che rimane sola. Non fa nemmeno finta, no, no, dice. Anche Frédéric, con atteggiamento di poco ingenuo, perché c'è una, è come un contrattato ironico, sapete che nei giochi dell'umanismo no, c'è una figura che fa la spalla, la conoscete questa cosa, no? Uno che fa la battuta e l'altro che sta dietro. Allora, Frédéric fa in questo modo la spalla, dice, ma tu non hai la volete di fare la cosa? E lei risponde, ma mica voi fate che erano liberi di fare lavoro, io sto pensando alla vita di sacrifici che ho fatto, e tu non sai i servizi, perché ha fatto questi servizi? Quante ne conoscete? Forse non ne conoscete nessuno, io conosco, avendo tanta più esperienza di voi, di persone che si sono tra ipocrisia e buona fede legati a qualcuno di ricco per stargli attaccati. Conosco una persona del mio parentato, persona ottima, squisita, vediamo anche chi è, una persona qui ottima, squisita, che è mia zia. Sapete ogni tanto vi racconto di cose mie personali. Stette vicino alla sua cugina, come una trompetta, e la cugina stava male e lei stava attaccata, ma dopo lì la cugina lasciò. Voi immaginate, stiamo parlando di 45 anni fa, lasciò a mia madre, cioè sorella sua, un anello, molto bello, ma un anello. A lei, che era stata vicino, 500 milioni di allora. Allora una casa la comprava con 6-7 milioni. Lasciò 500 milioni. Quindi, buona fede, ma fede, e chi vuole? Chi può sondare l'animo umano? Chi può sondare? Sta il fatto che qui, nella fattispecie, la Lombrosa, senza dubbio, con malafede assoluta, stava dietro al marito per impedire che il marito desse l'eredità poi alla figliuola. E questo basta. Passiamo oltre al capitoletto successivo, ma prima di passare al capitoletto successivo vi leggo semplicemente, senza bisogno che ne facciate un capitoletto come lo dice la pagina dopo, sulla vita di questo D'Ambrosio. E dice così, ve lo traduco naturalmente, lo dice così. E la vita era finita, quell'esistenza del D'Ambrosio, quell'esistenza piena di agitazioni. Come, quante, diciamo così, quante commissioni aveva dovuto fare negli uffici, quante cifre aveva dovuto allineare, ci siamo? Non è pazzo, siamo succedendo semplicemente, quante cifre aveva dovuto allineare, quanti affari aveva macinato, quanti rapporti aveva sentito, quanti imbonimenti, sorrisi, genuflessioni, perché aveva acclamato Napoleone, i cosacchi, Luigi XVIII, il 1830, gli operai, tutti i regimi, amando il potere di un tale amore che avrebbe pagato per vendersi. Questo naturalmente è di una, come potete comprendere, di un'attualità sconvolgente, no? Cerchiamo sempre di riportare questi discorsi alla nostra realtà attuale, ma pensate quanti personaggi della cosiddetta Prima Repubblica qui in Italia, paro, diciamo noi, a Roma si sono trovati nella Seconda Repubblica. Non hanno fatto una piega, si sono passati di qua alla, e nella terza. terza, posto che la terza è già cominciata, e hanno naturalmente succhiato al potere come la lotta del Campidoglio. Hanno succhiato tutto quello che potevano dal potere. Allora, dunque, al nostro capitolo. Una pagina, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ecco, qua ci siamo, otto, sette forse. E qui il capitoletto che avevamo già cominciato a considerare, che inizia con bourgeois de classe. L'avete trovato? Ecco. Adesso sappiamo che questo è il capitoletto 38, quindi, va bene? E il titolo è Rosanette, piccolo borghese, piccolo trattino borghese. Bisogna che abbiate abbastanza chiaro questi grandi concetti. Ricordate che abbiamo parlato di che cosa era la borghesia inizialmente, no? Gente che voleva essere autonoma dal feudatario, quindi gente che aveva valore umano. Erano professionisti, commercianti, industriali, eccetera, eccetera. Poi pian piano la connotazione negativa, quella che Flaubert prende di mira, e quella, per dire uno che se ne intendeva più di Flaubert, quella che Marx condanna naturalmente quando scrive il Capitale, quando scrive il Manifesto del Partito Comunista, eccetera, eccetera, ecco, quella borghesia perché era disprezzata? Era disprezzata perché aveva parlato semplicemente a far soldi, e spesso, Marx lo racconta evidentemente, anzi sempre, non più spesso, sempre questo avveniva in uno sfruttamento del lavoro salariato. Questa è la borghesia. Tutti sappiamo che cosa sono i borghesi, no? In Italia praticamente l'aristocrazia, per capirci, è veramente ridotta al minimo, è ridotta a poche figure grottesche. C'è un tizio che non voglio nominare nemmeno, merda assoluta, che batte la televisione, ecco, sapete di chi sto parlando. Ecco, c'è lui, di Lapone, io sono complice, come diciamo così, insieme, di Lapone. C'era la borghesia e il potere in Italia. Ditemi l'esempio del borghese più noto in Italia, come ha costruito la fortuna d'Italia. Chi c'ha il nome in mente? Era il presidente della Fiat. Forza! Agnelli. Ma il potere borghese non è aristocratico. Non c'è. Gli aristocratici, sapete chi sono? Sapete chi sono? Oltre ai summenzionati. Gli aristocratici sono dei piccoli gruppetti che stanno, per esempio, intorno al Papa. Quegli aristocratici cosiddetti neri, qui a Roma, no? E poi ci sono quelli vecchi latifondisti, ma insomma si tratta di gente che non ha praticamente alcuna incidenza, a meno che non si sia messa in banche, così, così, cioè, ma si tratta di gente irrilevante. Di potere borghese. Quello che adesso ci interessa vedere è che cosa vuol dire la categoria famosissima del piccolo borghese. Cos'è il piccolo borghese? Il piccolo borghese è un borghese sedicesimo, nel senso che è uno che viene dal proletariato, però ha studiato, è andato a scuola, crede di essere colto, si è impregnato di cultura e di piccoli pezzi odiosi di arrivismo, di ipocrisia della borghesia, però ha mantenuto sempre quella rozzezza iniziale, capito? Quella rozzezza iniziale. Avete notato che signorinità io sto parlando? Avete notato questo? Ecco, ma quella conseguenza rimane campo raro, è una cosa che mi ha messo, non sono solo un canto che mi cosa? Un bulino arricchito, sì, ma sono quei bulini lisci totali, in cui dici, qualcuno, questo non sa, tra l'altro, qualcuno ha il diritto di essere matto, ma non di essere da fuori. Dite che sono bello questa frase, qualcuno ha il diritto di essere matto, no? Un matto ha una sola umiltà, ma un capone no. Questo vuol dire, anche perché con la caponeria si può lavorare, cercare di essere un meno. Con la batteria, no, ho reso l'idea. Mi riferivo ad un episodio recente, sapete, ogni tanto. Dunque, piccolo borghese, è quindi una persona sostanzialmente meschina. Pasolini, che è stato uno dei grandi, e che la destra e la sinistra hanno cercato in Italia di tirare su uno dalla parte, uno dall'altra, eccetera. Pasolini, io devo dire che ho avuto, non soltanto è stato una guida, ma vi confesso che ho avuto la fortuna di incontrarlo. Non so. Ricordo molto, molto vivido. Odiava i borghesi, anzi i piccoli borghesi, questi proletari che si erano vestiti da piccoli borghesi. Allora, vediamo com'è Rosalette. Ricevuto e che riceveva, e dimensione in cui il fondo della sua persona lo irregala di chiunque, questa è una cosa bellissima, nella misura in cui il fondo del carattere di lei irrita di più, un gusto di sensi, dei sensi, aspro e bestiale lo trascinava verso di lei, illusioni di un minuto che si risolvevano in odio. Le sue parole, la sua voce, il suo sorriso, tutto giunse a dispiacere. I suoi sguardi soprattutto, quello sguardo di donna eterna, eternamente limpida e netta. E in qualche modo era talmente esasperato che voluto la propria vista morire senza emozione. Ma come incolerirsi? Lei era di una dolcezza esasperante. Vediamo questo quadro di Rosamente. Ricordate anzitutto però questo, che con Rosamente lui ha passato un periodo bello, sensuale, felice, quando era nell'hotel di Fontainebleau. Poi c'è stato quelle, ma a volte uno passa un periodo felice con una persona, perché è in una situazione particolare, una villeggiatura per esempio, no? Mi sarà accaduto probabilmente. Poi quando torno nella vita normale, la stessa persona appare diversa, o appare intollerabile. Ci sono dei lavori, per esempio, estivi, che no, quando sono vissuti successivamente in città, diventano insostenibili. Qui c'è stato un elemento. L'evento di mezzo che c'è stato è stata l'incredibile mancanza di delicatezza dolosamente di piombare in casa di Maratano proprio mentre lui aveva ormai in pugno la situazione. Rosamente in realtà piombare in casa di Maratano con un suo figlio, il fine di recuperare i soldi da Arnaud di cui aveva bisogno. Ma da quel momento comincia a guardare male la persona e capiva così effettivamente. Quando uno comincia ad avere una sorta di rancore, il rancore fruttifica e non riesci più a eliminarlo. E quindi, anche senza che tu accusi esplicitamente l'altra persona, i motivi di risentimento poi è come se proliferassero, uno ne generasse un altro e improvvisamente si vede la mediocrità, la meschinità della persona. Lei in realtà, questa piccola donna di montagna, voleva una vita tranquilla, una vita di menage. Parlava male delle donne come lei, lo pregò di non fumare. Guardate bene, Madame d'Ambrose aveva detto fuma, cioè prenditi la tua libertà. Lei invece ritiene che bisogna mantenere le convenienze borghesi. Allora sapete che sono molte donne che per esempio obbligano gli uomini in casa proprio lo stesso a togliersi le scarpe, in certi casi ad andare con le pattine, ad andare con le ciabatte, sì, ecco, è una cosa abbastanza costata, appena nella mia casa non entrare con le scarpe, mettiti le ciabatte, una cosa spaventosa, perché l'ordine della polizia va bene, insomma, no? E perché lei fa questo? Perché è attratta da questo mondo a cui originariamente non appartiene assolutamente, perché lei è una ragazza povera che è stata avviata dalla madre alla prostituzione, come in molti casi avviene. Voleva che lui digiunasse il venerdì, sapete questa convenzione cattolica per cui vi abbiamo già parlato dell'argomento, si mangia appunto il pesce, seppur lussuosissimo, il venerdì. Quando c'è il momento di andare al sesso, aperto, cioè al sesso, mostrava un po' di melanconia. Ecco, vi ho citato quella frase che una volta si scriveva fino alle 12 della notte, insomma, ecco. E di melanconia, come per dire, pazzesco, sto raccontando delle cose terribili. Sto parlando delle cose terribili. È come se dicesse, sì, lo faccio proprio perché lui mi ha bisogno. Pensate che io sono chirurgo. No, che è una specie di tutta essenza di ipocrisie, di spasimo. Pensate che nel monastile i sarti, il membro maschile deve essere collocato da qualche parte, adesso vi dico questo. Cioè, avete presente come vestono gli uomini, no? Con dei pantaloni. Quindi, vi posso dire questa piccola notte, il suddetto, il reverendo, deve stare o a destra o a sinistra. Non c'è nulla da fare. Allora, il piccolo, a Torino, città dove io sono nato, chiedevano dove volevi mettere, quando facevo un vestito su misura, dove volevi mettere il disturbo. Cioè il disturbo, non si poteva nemmeno immaginare che non potesse essere altro che un disturbo. In realtà queste cose di piccola taglia grezza, tenra, ottocentesca, sono cose che sono rimaste su varie aspetti. Vogliamo dire una cosa, la televisione è dominata il mondo, adesso l'ammazzo, la televisione Berlusconiano è un esempio smaccato, totale, di piccola borghesia, tutta, se escludete, fino all'arco del figlio, ma tutto quello che Antonella, soffro, come se infilassi lo spillone nella carne. Antonella, hai capito di questo dicendo? Allora, è l'emblema del piccolo borghesismo. Perché è importante fare questi riferimenti per la nostra vita pratica, la nostra vita quotidiana, che viviamo, cioè, perché così possiamo capire meglio che tipo di persona possiamo e preoccupare forse l'atteggiamento di Flaubert nei confronti di Osanet. Questa sognava il matrimonio, ecco quello che ha portato a lui, che tutte le donne sognano il matrimonio. Allora, adesso è diverso, però avevo visto fiori davanti ricche, donne che avevano il danaro, avevano tutto, eccetera, però che di fronte al contubernale che offriva loro di sposarle, ancorché dopo 25 anni di contubernio, avevo un sorriso di felicità. Ho visto persone che dicono, io non mi sposerei, non mi sposerei mai, ma guardo la Madonna, per carità, sono in due, siamo felicemente non singoli, ma abbiamo una vita, ognuno la sua vita, ma quando c'è una proposta di matrimonio, una specie di felicità. Allora, ma tu sai che non è come finisco, ma il paradiso può sempre nascere un'altra volta. Qualunque donna è sensibile a questo tema, dico, ha assolutamente ragione, E lui si irrita dei regali che ha ricevuto nella sua altra vita. Perché? Perché viene a Rosanetta, guardate questa finanza. Non è questione che tengo a Rosanetta, ma è questione che se si allaccia ad un rapporto amoroso e segretamente carnale con l'altra persona, tu vuoi controllare l'altra persona. Chiaro il punto. Cioè, è un po' come chi ha una macchina, no? Ed è geloso della macchina, e prima di mollare le chiavi della macchina a magari un non lo fa. Dici, mi posso andare? No! Dico, ma perché? Ma sono guidare la macchina? No, ma non mi fido, eccetera. E quindi uno vuole che la donna, o l'uomo, che ci vuole che sia proprio sua proprietà esclusiva, fulmina esclusiva. Veniva così piccolo borghese, veniva così sciocca. E tuttavia, scoperta straordinaria, lo eccita. Lo eccita. Voi sapete che la storia dell'umanità è percorsa da questo commento delle donne. Ma come mai quell'uomo così intelligente? Questo è il commento che percorre da Cleopatra ai giorni nostri la storia dell'umanità. Ma come mai quell'uomo così intelligente ha sposato una donna così cretina? Ecco. E quello che non si capisce abbastanza bene è che nella sua odiosa bestialità, la sensualità maschile, a volte eccitata da forme di carnalità pura e di stupidità trascendente, come appunto nella fattispecie quella. Per cui questa stupidità amorosamente lo esalta. Lei è una donna eternamente limpida e inetta. Guardate come bella questa espressione. Eternamente limpida, cioè quello che ci sollecita più in profondo nei sentimenti non è la limpidezza totale, perché la limpidezza totale non ci dà alcun gusto. Una persona che sia trasparente totalmente non mi interessa. Noi siamo attratti verso il complicato, che è proprio grottescamente, infatti non fossero lì come brutti, quindi noi vogliamo in profondità. Lei era limpida e inetta, inetta viene da in angelo, cioè non sapeva fare nulla di cose importanti nella vita, non sapeva fare nulla. Questa donna eternamente limpida e inetta, lui era esasperato al punto tale che se fosse morta avrebbe assistito alla sua morte senza emozione. Va bene, fermiamoci qui e noi ci vediamo lì. Sapete, giovedì vi ho raccontato, concluderemo con tutto. Se non lo sapete ancora, lo dico ancora. I ragazzi di Mallarmé, con loro concludiamo tutto lunedì. Ragione per cui lunedì facciamo tutto regolare. Mallarmé e Flaubert. Mallarmé si conclude, quindi le due ore di giovedì saranno tutte e due dedicate a Flaubert.